Donna, hai una pelle a buccia d'arancio ormai sfiancata dalla cellulite più devastante? Allora sappi che ormai non c'è più niente da fare. Sappi che il passato non ritorna, che le cosce tornite di un tempo sono solo un lontano ricordo. E consolati col semifreddo rusticone. Semifreddo rusticone, il semifreddo a base di rume maraschino, che non combatte la cellulite, ma che almeno per un po' te la fa dimenticare. Semifreddo rusticone, il semifreddo da gustare quando ormai per le tue cosce non c'è più niente da fare. Niente.